Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio dal padiglione 2, stand H170J169 della Fiera Internazionale del Libro di Torino. Questa è la seconda diretta in onda dalla Fiera di Radio 24. Ha cominciato stamane Gianluca Nicoletti con il suo Melog. Proseguiranno alle 17 Sebastiano Barisoni con Focus Economia, alle 18.35 La Zanzara di Giuseppe Cruciani e così via, sino all'edizione del lunedì di A Tempo di Sport, che chiuderà questa lunga serie di dirette dalla Fiera. Un'iniziativa che vede schierata Radio 24 al gran completo. Potrei anche darvi la formazione di Radio 24 per questa iniziativa, anzi ve la do, di tutti quelli che hanno lavorato e stanno lavorando per questo incontro gremito, perché il pubblico ha davvero gremito le nostre gradinate. Allora, una cosa tipo, in porta Elena Ligios, in difesa ci mettiamo da destra a sinistra Luca Buratto, Davide Ciocia, Michele Previato e magari Guido Scotti. Farei un centrocampo al femminile con Sonia Cassaghi, Laura Faggin, Anita Ariotti, Sara Spreafico e in attacco Alessandra Scaglioni e Roberta Lai, che essendo il nostro amministratore delegato deve badare ovviamente innanzitutto a far gol, questo è evidente. Fabrizio Guidi dirige la squadra dalla panchina, ci sono altri panchinari che giocheranno poi quasi certamente la panchina di lunedì. Già oggi ci tocca giocare in 12 perché ho dimenticato Pietro Lacorte, senza il quale non staremo andando in onda, ma insomma meglio uno in più che uno in meno. Tra poco, come ampiamente annunciato, ci raggiungerà Massimo Gramellini, vice direttore della Stampa. C'è già un messaggio di attesa per lui, la prego, legga questo sms a Massimo Gramellini. Seguo sempre la sua rubrica, il suo buongiorno sulla Stampa e la sua rubrica da Fazio. Apprezzo la sua onestà, parola quasi sconosciuta in questo paese, oltre alla vasta competenza. Credo che siano i parametri che hanno richiamato qui questo gran numero di persone. Non sapevamo che Massimo Gramellini, tra tutte le virtù, avesse anche il vizio del ritardo, ma insomma questo glielo perdoniamo, no? Direi per il momento. Dunque, nel frattempo, proprio mentre l'aspettiamo, direi di smaltire l'attualità, invitandovi comunque a preparare i vostri interventi in diretta in onda, interventi in diretta che oggi funzionano in maniera diversa, nel senso che chiamano come sempre al centralino da Catanzaro a Udine a Torino, ma i torinesi oggi intervengono da qua. Ho pregato il centralino di Milano di non passare interventi in onda da Torino. Sarete voi, vedete quel signore alla vostra sinistra che si chiama per l'appunto Scotti, lui ha impugna un microfono e alla prima alzata di mano vostra arriverà a sollecitare un vostro intervento. Non stravolgiamo comunque una formula che funziona ormai da 10 anni e fischia, e quindi sentiamo due voci di attualità, giusto per riportarci all'argomento principe della puntata. Poi vi darò qualche buona indicazione di lettura, visto che siamo al Salone del Libro. C'è un ex giocatore della Fiorentina che è diventato ieri sera campione d'Europa, mi verrebbe da dire di Serie B, perché insomma il campione d'Europa è quello che vince la Champions League, però l'Europa League il suo valore ce l'ha. Ulfalusi con l'Atletico Madrid ha vinto questo trofeo, sentiamo il suo commento. Abbiamo vinto, siamo tutti felici, possiamo festeggiare un po', no? Questa è la mia prima vittoria, ho vinto qualcosa per prima volta, quindi vorrei vedere come si comporta la gente là. Sarebbe perfetto per noi, per i nostri tifosi, sarebbe un sogno. Abbiamo fatto un passo con la UEFA, ora prossimo mercoledì c'è un'altra partita contro Sevilla. Sicuramente faremo il nostro meglio per vincere anche questa Coppa del Re. Speriamo. Cominciamo con i consigli di buone letture. Allora, mostro al pubblico in sala e cito per chi ci sta ascoltando, come sempre, dall'etere, Stefano Borgonovo, e sapete immediatamente di chi sto parlando, e cioè di un calciatore che sta lottando disperatamente contro la SLA, contro il flagello, uno dei flagelli di questi tempi. Stefano Borgonovo, con la collaborazione di Alessandro Alciato, che è un giornalista di Sky, ha scritto Attaccante nato. Il successo nel calcio, una famiglia felice, ma la SLA ferma tutto, imprigiona l'anima. che grida, non si rassegna e dà battaglia. È un libro edito da Rizzoli, ve lo suggerisco ovviamente per ragioni anche umanitarie. Poi, se ci sarà il tempo, vi leggerò un brano scritto di suo pugno da Stefano Borgonovo, che sinceramente dà i brividi. Un altro, sempre nello stesso filone, lo ha scritto Ivan Sica, questo è soltanto, lo dico per chi è, ripeto, qui al salone, questo è soltanto un facsimile della copertina ed è dedicato ad Andrea Fortunato. Il titolo è Una stella cometa. Andrea Fortunato, io mi auguro che lo ricordiate, è stato un magnifico terzino della Juventus dei primi anni 90 che ci ha lasciato in giovanissima età. Altri consigli per letture di questo periodo. Due titoli di Limina. Limina è una casa editrice sportiva per eccellenza e ha editato negli ultimi tempi Quel che resta di Coppi, scritto dalla penna breriana di Andrea Maietti, e ha pubblicato anche un libro più curioso che si chiama L'Atalanta nei giorni. L'autore è Stefano Corsi ed è una storia molto bella e molto ben scritta, in cui le vicissitudini atalantine fanno da cornice a una testimonianza di un insegnante di liceo in una provincia italiana di oggi. Un testo davvero interessante. Torniamo in vostra compagnia. C'è già un ascoltatore prenotato, ma stavolta in diretta qua a Torino. Avete sentito che dalle notizie sul traffico non risultano blocchi in via Nizza, e quindi insomma, mi auguro che da Corso Dante, cioè dalla sede della stampa qui Gramellini, riesca a percorrere questo tratto di strada in tempi brevi. Ma tra poco, se per caso così non dovesse essere, noi facciamo una bella cosa, lo pinziamo al cellulare, no? in marcia d'avvicinamento, così comincia a parlarci mentre arriva. Sentirei ancora una voce prima, per rispettare un copione collaudato e più che decennale, e sentirei la voce di Le Grottaglie, che è stato l'escluso a sorpresa all'ultimo momento dall'Ippi per la lista non dei 23, che sono quelli che poi davvero andranno in Sudafrica, ma dalla lista dei 30, che è la prelista. Le Grottaglie. Sì, mi ha chiamato lui lunedì mattina, mi ha comunicato che ha fatto scelte diverse, ha preferito altre caratteristiche, ma umanamente sì, mi dispiace, perché era un qualcosa che inseguivo, ecco. In questi due anni penso che i miei campionati erano stati ottimi per poter ambire a questo traguardo. Ringrazio Lippi che mi ha dato la possibilità per questi due anni di stare in questo gruppo, mi sento orgoglioso, onorato di averne fatto parte, perché è un grande gruppo, e farò il tifo per loro. Io posso solamente oggi dire grazie per quello che è stato, ma non posso assolutamente essere nutrire rancore o essere arrabbiato per niente, perché quello che ho ricevuto è per me è stato importante. Gran classe, direi, da parte di Le Grottaglie nell'accettare, nell'incassare questa esclusione. Allora, il primo intervento di oggi dalla Fiera del Libro di Torino. Francesco, dica. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno, sono Garanzini. La mia domanda in realtà è da giocatore in trasferta, diciamo così, perché volevo chiederle un'opinione relativamente alla situazione del Milan. Si fa un gran parlare della possibilità, visto che Galliani ha fatto un'apertura, dell'arrivo di Allegri. Cosa facciamo? Gli vogliamo dire a questo Allegri di evitare di farsi venire mal di testa, di cercare di allenare bene da un'altra parte, perché troverà un sacco di belle gatte da pelare a Milanello. Ma io presidente credo... in primis. Sì, beh, insomma, il presidente mi pare che nell'ultimo anno non sia stato molto tenero con gli allenatori che c'erano. No, un anno fa ci ricordiamo che la rovina del Milan era stata Ancelotti. Mi sembra che in Inghilterra, quando ha avuto una squadra viva, sia andata in maniera un po' diversa. Quest'anno a rompere le uova nel paniere e a distruggere l'enorme potenziale milanista è stato Leonardo, sempre secondo il presidente. Io non credo che sarà l'Allegri l'allenatore del Milan, perché mi è sembrato l'intervento di Galliani un po' un depistaggio. Credo che il Milan ai milanisti resti uno slogan che d'altra parte è perfettamente legittimo da quasi 25 anni a questa parte. Allegri è un signor tecnico, indubbiamente, addirittura c'è chi sta pensando a lui per la nazionale, che forse sarebbe un tantinello prematura. Allegri ha giocato una tournée nel Milan, tra l'altro non in maniera molto brillante, ma insomma il fatto di dire anche lui fa parte della nostra famiglia ed è a sua volta un milanista mi è sembrato un modo un po' strumentale per sviare il discorso. Alterniamo questi. Il telefono di Gramellini è occupato, quindi questo è un ulteriore aggiornamento. Alterniamo gli interventi da Torino a quelli che arrivano in onda. Da Reggio Calabria sta chiamando Mimmo. Buongiorno Mimmo. Buongiorno Gigi. Io sono interista al 100%. È suo diritto. Dico una cosa, che su Calciopoli Facchetti telefonava mentre la Juventus vinceva gli scudetti. Perciò traete la conseguenza. Mi dispiace che è defunto quel Facchetti, non si può difendere. No, questo è vero. Io dico che poteva anche fare a meno di telefonare, visto che tanto gli scudetti li vinceva la Juventus, risparmiava sulla bolletta, a parer mio, la sua e quella dell'Inter, ma questa è un'opinione molto personale. Forse anche vagamente demagogica, visto che siamo a Torino, però sinceramente lo penso e quindi tanto vale che lo dica. Il gioco dell'alternanza tocca di nuovo al pubblico in sala e quindi a Enzo. Buongiorno signor Garanzini. Dica Enzo, buongiorno. Proseguiamo sul filo dell'Inter, bene o male, ma mi rilacciavo alle ultime notizie, cioè a un messaggio che ho letto di Cruyff, secondo cui Mourinho non vale, nessun allenatore, Mourinho in primis, vale tutti quei soldi, e alle convocazioni dell'Argentina, perché che sembrano essere state decise anche da Veron, con l'ostracismo a Zanetti e a Cambiasso, per cui la presenza di Clan. Il fatto che Clan nell'Inter esistessero e l'Inter al di là di Calciopoli non vincesse e adesso vinca, e vinca anche in Europa con l'arrivo di Mourinho, forse rivaluta un po' la presenza del portoghese? Sì, io partirei, però non dimenticherei l'era Mancini, e le faccio questo esempio tecnico. Zanetti, che oggi è l'emblema stesso di questo Inter, ed è oggettivamente un giocatore molto ma molto più grande di quanto non fosse pochi anni fa, ha avuto una trasformazione tecnica e tattica enorme nel corso della sua carriera. Io distinguerei, faccio il caso di Zanetti perché è emblematico. Zanetti ha passato i primi anni della sua carriera a fare il postino, cioè la palla, si ricorderà, la recapitava a domicilio, no? Aveva questo tipo di consegna, sembrava che gli dovessero dare la ricevuta o lo scontrino. Adesso, da qualche tempo a questa parte, Zanetti la palla la fa correre a sua volta e se ne libera il più presto possibile. Vuol dire che c'è stato un grande lavoro tattico e di personalità da parte di un allenatore che l'ha convinto a fare questo. Ora, Mourinho l'ha perfezionato, però mi sembra di ricordare che già negli anni di Mancini la palla di Zanetti fosse una posta celere, ecco, mettiamola così, rispetto a prima. E questo vale... E questo è per agganciarmi al primo dei suoi argomenti, e cioè a questa battuta di Cruyff, che trovo sacrosanta. Cioè, oggi è indubbio che gli allenatori hanno preso un peso esagerato nell'importanza che l'opinione pubblica dà a loro. Perché mentre una squadra, ho visto anche tantissimi esempi del passato, e adesso gliene cito uno interista, una squadra non dico che possa fare a meno di un allenatore, ma in certi casi quasi, un allenatore non può certamente fare a meno di una grande squadra se vuole vincere. E quindi io continuo a pensare che venga prima di gran lunga la qualità dei giocatori a disposizione, poi la bravura di un allenatore, che più bravo è meglio è, questo è evidente. C'è un esempio in casa interista che è storico, nel 70-71 il compianto Gianni Vernizzi. Beh, io faccio fatica a pensare che facesse la formazione, nel senso che si è poi saputo negli anni successivi che la formazione la facevano Facchetti, Mazzola, Corso, Boninsegna, cioè i vecchi dell'Inter. Era bravissimo Invernizzi a tenere insieme e a creare un ambiente, un'atmosfera in questo gruppo. Ho fatto l'esempio forse più eclatante del calcio non tanto moderno, ma mi creda che ce ne sono ancora anche oggi, insomma, di versioni di questo genere. Problema di microfono, sì, devo stare più vicino al microfono, scusate. Non ci sono interventi da qui, allora andiamo a Brescia, da Marco, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, salve. Volevo semplicemente dire questo: ho provato a comprare due biglietti per la partita Milan-Juventus con un mio parente israeliano, è praticamente impossibile entrare allo stadio per un extracomunitario, come viene definito. Com'è possibile che entrano delinquenti, disgraziati, ma due persone normali, anche 82 anni, non possono entrare allo stadio? Di che partita sta parlando? Della finale di Milan Madrid? No, Milan, l'ultima di campionato, valore zero. Vabbè, ma se parliamo di queste disavventure che riguardano il calcio nostrano, ormai c'è anche la logistica che non funziona più, non soltanto l'ordine pubblico, quindi non, purtroppo lei dice una cosa non inedita, lo so che dovrebbe essere un'eccezione quella che lei ci racconta, purtroppo invece è diventata la regola. Massimiliano in linea da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Senta, sempre su Calciopoli volevo fare una riflessione, ma soprattutto volevo un suo esimio parere. Stamattina ho letto il commento di La Russa che invitava il nuovo giovane Andrea Agnelli a non voltarsi indietro, a non farsi venire il torcicollo, sicuramente l'avrà visto anche lei. Però mi piacerebbe tanto poter vedere un bel giorno qualcuno di questi, di tutti questi interisti che di fatto hanno sempre detto, anzi, da arrabbiati, guai a toccare buon'anima di Facchetti, sono io il primo a non volerlo toccare, però se ricordo bene, e ricordo bene, Facchetti non aveva mai parlato in vita sua con un arbitro, stessa cosa per Moratti. Ora io mi chiedo, ma non sarebbe bello, alla luce di tutte queste cose che stanno avvenendo, e che io non vado a reclamare uno scudetto revocato, sia ben chiaro, da Juventino, però dico, non sarebbe bello in quest'epoca, visto che l'Inter è venuto fuori quello che è venuto fuori, la Roma all'epoca seconda arrivata non era stata segnata come per il discorso delle fideiussioni, ma non sarebbe bello dare un segnale importante ed assegnare questo scudetto per quello che è valso al Chievo? Secondo me sarebbe un bel messaggio a tutto il mondo del calcio, che avrebbe bisogno di segnali di questo sì, tipo. Sì, Massimiliano, ma sa come finirebbe? Che Campedelli, che è un signore, lo rifiuterebbe, direbbe no grazie, noi uno scudetto non lo vinceremo mai, direbbe Campedelli, ma ci posso scommettere, conoscendolo di persona, ma certamente non lo vogliamo a tavolino, e sarebbe una posizione leggermente diversa da chi invece allora brindò, no, a una cosa che non aveva senso. Io allora non sbagliò tanto, secondo me, la commissione dei cosiddetti, molto cosiddetti tre saggi, ad assegnare uno scudetto alla prima squadra classificata che veniva dopo la Juventus. Sbagliò chi lo accettò, e quello fu l'errore storico. Ha scritto Marina da Milano, dice: mi piace questo tutto Gramellini minuto per minuto, aumenta il piacere dell'attesa. Vabbè, adesso l'attesa è finita, ben arrivato Massimo. Grazie, non era una strategia, eh. Sì. E l'arrivo al salone il primo giorno è sempre molto travagliato. Senti un po', allora, no, lo dico a beneficio di quei pochi, ma qui, certamente non qui, che non conoscessero a fondo Massimo Gramellini, cosa che invece può accadere fuori, in particolare fuori dal nord-ovest. Allora, Massimo Gramellini è innanzitutto giornalista, è scrittore, è debuttante romanziere, e questa è la sua prima fiera internazionale del libro da romanziere, e ovviamente ne parleremo, a me viene da dire tenutario di una posta del cuore da una dozzina di anni, eccetera. Se non gli piacerà tenutario, troverà lui il modo di correggermi. È un grande appassionato di calcio, anzi, è tifoso del Torino. Il titolo principale, fino ad ora, pubblicato da lui, prima di questo romanzo, che si chiama L'ultima riga delle favole, prima di questo era Granata da legare, e mi sembra che già dia un'idea del personaggio. Da dove vuoi cominciare in questo viaggio alla riscoperta, se vogliamo, o all'approfondimento di Massimo Gramellini? Oh mio Dio, le favole teniamo nella fine magari. Cominciamo dall'incubo, cioè dalla promozione del Toro in Serie A, se vuoi. No, scherzo, io sì, hai detto bene, hai distinto l'appassionato di calcio dal tifoso. Sono due professioni completamente diverse. Ieri mi ha scritto un signore di Cuneo per raccontarmi la emozionante domenica che ha trascorso per la vittoria nei playoff, nella finale dello scudetto di pallavolo, dicendo: lei non ha idea la favola che ho vissuto, arrivare al Palasport di Bologna, confondermi con i tifosi dell'altra squadra, tifare insieme, poi noi abbiamo vinto, gli altri ci hanno applaudito e siamo usciti dallo stadio. Perché nel calcio non si può fare questo? Io stavo per rispondergli una cosa moralista, poi mi è venuto in mente che il calcio è la parte, purtroppo, è la dark side, cioè la parte oscura di noi. Ti racconto questo aneddoto. Mia moglie non era mai stata allo stadio in vita sua. 4 anni fa la porto a vedere la finale playoff per la Serie A Torino-Mantova, ultimo incontro delle Alpi, che poi ha chiuso. 70.000 persone, stadio pieno. Noi entriamo nel momento in cui il Mantova entra per fare il riscaldamento. 70.000 voci, tolti i 300 tifosi del Mantova, cominciano a gridare all'unisono: ucciditeli, ucciditeli. Mia moglie mi guarda terrorizzata, fa: i leoni quando entrano? E io faccio: guarda, mi vergogno, hai ragione, sono imbarazzato, mi vergogno dei miei confratelli di tifo. In quell'istante lei si gira perché la chiama un'altra persona e io mi giro verso lo stadio e faccio: uccideteli, e mi chiudo. È vero, cos'è? Perché ci prende questa bestia? Non lo so, io continuo a dire che è una parte della nostra infanzia che noi ogni domenica rinnoviamo, perché in fondo per me la partita di calcio è la mano di mio papà che a 7 anni mi accompagna allo stadio ed era l'unico momento tutto per me che lui mi dedicava durante la settimana, e questo quindi per me rimane il calcio, rimane Gigi Meroni visto giocare 3 giorni prima della sua morte, rimane tutto questo, no, anzi 3 giorni, poche ore prima della sua morte, poche ore prima. E poi il derby della settimana dopo vinto 4-0 con tutti i tifosi che piangevano, e il giorno in cui sono diventato veramente tifoso del Toro. Poi però c'è quell'altra parte, quella parte oscura, brutta, e io mi domando sempre, Gigi, quando ti dicono che il calcio è uno spettacolo, e lo dicono ed è una bugia, perché se io voglio vedere un bello spettacolo, ho pagato 50 euro, spero che lo spettacolo duri all'infinito. Se io pago 50 euro per andare allo stadio e il Toro segna un gol al primo minuto, spero che finisca subito. Eppure ho pagato, dovrei desiderare che duri 3 ore, ma per carità, magari fosse l'ultimo minuto. Quindi non è uno non andiamo a divertirci, andiamo a lavorare, è un lavoro durissimo. Sono passato, arrivando qua prima, nello stand di Priuli e Verlucca, che è una casa editrice importante del territorio. Io ho trovato presenti sul bancone, non solo in catalogo, tutti i titoli firmati da Massimo Gramellini in questi anni. Allora, vi ho già citato Granata dalle gare, cioè i migliori derby della nostra vita, e potete immaginarvi quali possano essere stati questi derby. Preistoria, purtroppo. Certo, preistoria. E poi c'è un buon canto Toro, addirittura. Buon centenario. E poi c'è una prefazione, insomma, ricca ovviamente, e scritta alla tua maniera, sugli inni del Toro addirittura. Ah sì, quello è un CD di statuto, che sono gli autori dell'attuale inno del Toro, e quando facemmo anni fa qua al Salone la presentazione di Granata dalle gare, io alternavo una lettura con una canzone loro, con un inno del Toro. E ti assicuro, non mi vergogno a dirlo, è stata una delle giornate più commoventi, non solo per me, c'era il pubblico, c'erano personaggi, da Giuseppe Culicchi a Giampaolo Ormezzano in prima fila, che piangevano come bambini. Insomma, è il potere così del calcio, del tifo. Senti, quando metti la giacchetta, adesso in questo momento sfilati un attimo la maglia granata, mettiti la giacchetta da vice direttore della stampa, sei alle prese. No, quella della Juve, quella no. Ecco. No, quella non te lo posso chiedere, ma è evidente che sarebbe contro natura. La giacchetta del vice direttore della stampa, e valuta in questo momento la mossa più recente della società Juventus di chiedere indietro questo scudetto del 2006. Te la metto dal mio punto di vista assolutamente neutrale. Indipendentemente dalle ragioni anche processuali che la Juventus può avere o potrebbe avere andando avanti, mi domando: ha un gran senso a parer tuo, in un presente difficile e con un futuro denso di incognite, cominciare a voltarsi indietro per tenere buona, a parer mio, la parte più frustrata e più pericolosa della tifoseria? Al vice direttore della stampa. Guarda, la risposta è molto semplice. Io ho capito un'altra cosa parlando con loro. Ho capito che loro non vogliono la restituzione dello scudetto alla Juve, vogliono la revoca dello scudetto all'Inter, vogliono che quello scudetto, così come quello che fu portato via al Toro nel 1927, perché ce n'è sempre uno, portato via al Toro. No, l'unico precedente. Sì, no. E quell'anno non fu assegnato. Sapete perché non fu assegnato? Perché il presidente della Federcalcio, che era un gerarca fascista, Arpinati, tifoso del Bologna, poiché la seconda classificata era il Bologna, si vergognò a darlo alla sua squadra. Devo dire che invece in quell'occasione il commissario straordinario della Federcalcio Rossi, tifoso ed ex dirigente dell'Inter, non si vergognò affatto a darlo all'Inter. Secondo me quel campionato non va assegnato a nessuno. E guarda, non lo dico io, lo dicono tantissimi tifosi dell'Inter con cui io parlo, che mi dicono: è uno scudetto che non sentiamo nostro. Sì, sì. Noi ci accontentiamo che non lo diano alla Juve, dicono loro. Certo. Quindi non assegnatelo. Se poi volete assegnarlo a qualcuno, lo prendiamo noi, che appunto ce ne manca uno dal 27, ce lo restituite, siamo contenti. È la stessa cosa, infatti. Non eravamo neanche in Serie A quell'anno, ma non importa, basta il pensiero. Ma infatti la Juventus, l'hai detto tu, non è che lo vuole indietro, lo vuole levare all'Inter, quindi sì. Vedi che questa... Però questa... levarlo, cioè, mi sembra anche giusto, cioè, perché non, uno scudetto, quando la prima classificata non lo vince perché viene punita per degli illeciti, non è giusto che il premio vada al secondo, secondo me. Ripeto, non accadde nel 27, non vedo perché deve accadere ora. C'è qualche intervento in sala? No, scaldatevi, perché io posso andare avanti a oltranza con Massimo Gramellini e possiamo finire verso le 8 di sera, però se qualcuno di voi invece vuole approfittare della circostanza non proprio abitudinaria, con grande piacere. Prima di arrivare ad altri argomenti e ad altre versioni di Massimo Gramellini, restiamo nel calcio. Vi leggo, l'ho già letto ieri per la verità, l'incipit del Buongiorno di ieri, ma ci farei qualche riflessione. Vi leggo soltanto le prime tre righe. Copertina della stampa di ieri. Hai talento, hai fantasia, hai personalità, allora resta a casa. La lista dei 30 calciatori, tra cui Citilippi sceglierà i 23 che voleranno in Sudafrica, è una nazionale che assomiglia alla nazione. Abbondano i reduci e i bravi ragazzi, ma latitano disperatamente i numeri 10, quelli in grado di movimentare una conferenza stampa e soprattutto una partita che si sta mettendo male. Allora ti chiederei l'approfondimento su questa doppia chiave di lettura, sia calcistica ma che soprattutto direi di costume nazionale. Beh, insomma, mi sembra che proprio il parallelo è totale. C'è un capo che si circonda di persone che siano degli esecutori, perché teme le personalità che possono oscurare la sua. È una nazionale rivolta all'indietro, perché davvero l'idea che l'ossatura della nazionale, come ha scritto anche Sconcerti, sia composta dalla Juventus e dal Milan, cioè da due squadre che dominavano nell'altro decennio, l'idea che Inter e Roma insieme abbiano un solo convocato, cioè la metà dell'Udinese che ha lottato per la salvezza, è davvero incredibile. Ci vorrei sapere, Thiago Motta perché non può andare in nazionale, visto che ha il passaporto italiano? Non vedo cosa abbia in meno Thiago Motta, che giocherà la finale di Champions, rispetto a Gattuso che fa la riserva nel Milan. Certo. Oppure, visto che abbiamo fatto carte quasi false per Amauri, no? Però Amauri poi ha deluso, ma io ancora, sì, domenica ho visto i movimenti in campo di Balotelli. Ora, io credo che Balotelli, al di là di qualunque valutazione sulla persona, ha 19 anni, ma è un fenomeno che io non so, cioè devi avere veramente dei grandi campioni in nazionale per poterti permettere il lusso di lasciare a casa uno come Balotelli. Io provo a farti questa domanda: secondo te quanti giocatori della nazionale di Lippi schiererebbe Mourinho nella finale di Champions? Io forse Chiellini, non ne vedo altri. Non l'ultimissimo Chiellini. Ecco, però diciamo forse solo che. Quindi io sono terrorizzato. Io dico, arrivo a dirti, io anche uno come Totti, che ha 34 anni e che ha avuto una stagione difficile, ma te lo porti in panchina, cioè Italia-Spagna, quarto di finale, mancano 10 minuti alla fine, stai perdendo 1-0, magari la Spagna è stanca, fai entrare Totti, ti fa una punizione, un calcio d'angolo. Io gli dico, con tutto il rispetto, ma fai entrare Pepe, non è la stessa cosa. No. Poi certamente Pepe obbedirà agli ordini di Mastro Lippi, io non lo metto in dubbio, però signori Dio, abbiate pazienza. Il signor Lippi dovrebbe anche studiare la storia del calcio italiano. Vittorio Pozzo vinse 2 anni di fila il mondiale cambiando 9/11 della nazionale, non riconfermando quasi tutta la squadra di 4 anni prima, con giocatori come Zambrotta, Gattuso e Grosso che fanno le riserve nei loro club. È un atteggiamento, secondo me, di una presunzione, di un distacco dalla realtà, di una mancanza di umiltà, che mi fa dubitare dell'intelligenza di un uomo sicuramente intelligente, che peraltro ha vinto molto anche grazie alle persone con cui lavorava. In attesa di un mazzo di fiori di Lippi, io darei la linea allo studio centrale per sentire come va su strade e autostrade. Non perdiamo le cattive abitudini, allora sentiamo subito che cosa Nicola Filippone ci ha preparato per la data di oggi nella storia dello sport. Sembra ieri. 13 maggio 1962. Debutta con la maglia della nazionale un 18enne destinato a una carriera eccezionale. È il gioiello del Milan Gianni Rivera, schierato insieme ad Altafini e Sivori in un'amichevole con il Belgio disputata a Bruxelles. Gli azzurri si impongono per 3-1 con doppietta di Altafini e rete di Menichelli. Rivera mostra subito numeri e personalità. Il Golden Boy convincerà così i commissari tecnici Giovanni Ferrari e Paolo Mazza a includerlo tra i convocati per il Mondiale cileno. La prima delle 4 fasi finali cui Rivera prenderà parte. Avevi 2 anni, Massimo. Io guarda, volevo mandare davvero un saluto affettuoso a tutti i colleghi giornalisti che seguiranno la nazionale ai mondiali, perché sono attesi da un lavoro difficilissimo. Cioè, pensate, in passato appunto tu avevi i duelli Rivera-Mazzola, Vialli-Baggio, cioè di cosa parleranno per un mese? Deve giocare Pepe oppure Montolivo? Cioè, con tutto il rispetto, ripeto, perché sono fior di professionisti, ottimi giocatori, però non abbiamo in tutta la nazionale un personaggio, una figura che, cioè, pensate solo avere tra i 23 giocatori Cassano, ti riempiva tutti i giorni una pagina di giornale. Sarà veramente dura lì riuscire, forse sarà per la prima volta parleremo di calcio davvero, si parlerà di schemi, di tattiche, non lo so, perché personaggi zero. C'è in sala, sì, Salvatore che ha chiesto di intervenire. Dica. Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a Garanzini. Volevo chiedere a Massimo Gremellini un bilancio, diciamo, la domanda è un po' difficile, sull'operato di Cairo in generale, cioè da quando è arrivato, se non ritiene che magari già quest'anno comunque ha fatto un bagno di umiltà nel diciamo lasciare l'opera sul mercato anche ad altri. Infatti ha comprato comunque dei giocatori più motivati, più giovani, sembra che la squadra abbia reagito meglio. Infatti, negli ultimi hanno mesi. Comprato dei giocatori più seri che sì, ha delegato ad altre persone. La domanda è per lui, sorry. No, io dico, guarda, Cairo ha commesso un errore gravissimo, ha vinto subito il primo anno e ha pensato di aver capito tutto del calcio e quindi da quel momento si è affidato a persone che lo hanno portato in giro come hanno voluto. Credo che adesso dopo 5 anni abbia capito, ha trovato finalmente un direttore sportivo bravo e quindi ha messo le basi per un lavoro che io credo nel giro di 2 o 3 anni darà risultati. Io non appartengo a quelli che si augurano che lui vada via subito solo perché so benissimo che non c'è nessun emiro. Allora, per sostituire Cairo con un altro Cairo che dovrebbe però ripartire da zero con l'esperienza, tanto vale che ci teniamo questo, che dopo 5 anni ci si augura abbia più o meno capito. Insomma, le prime scottature le ha prese, no? E quindi pensiamo a Moratti, altro livello anche di disponibilità, però anche lui prima di arrivare ad avere un Branca, questo straordinario uomo mercato che da 2 o 3 anni sta facendo l'Inter ogni anno meglio, e però prima di arrivare Branca anche lui ha commesso vari errori. Adesso l'Inter mi pare che possa essere soddisfatta del suo uomo mercato. Non si dimentichi di citare quel brano di Borgonovo, mi raccomando, un ascoltatore da Udine. Stefano, se non è possibile oggi, perché davvero c'è una sala gremita, lo faccio certamente lunedì nel successivo appuntamento qua da Torino di A Tempo di Sport. E se invece c'è un minuto che avanza, con grande piacere. Torniamo indietro di 8 anni, Massimo, a un altro mondiale infelice, perché mi sembra che tu non lo veda straordinario quello che va ad incominciare tra meno di un mese. Io ricordo un tuo buongiorno in cui levasti veramente la pelle a Giovanni Trapattoni quando la telecamera lo beccò con l'acqua santa e io mi ricordo che ti abbracciai idealmente una delle tante volte che la mattina il caffè va giù meglio con il buongiorno, lo ricordi? Sì, ricordo, è la solita cosa molto italiana anche questa, no? come capita appunto oggi in cui mentre sugli spalti ci sono scene da Arancia Meccanica, noi ci preoccupiamo che i calciatori non dicano parolacce o bestemmie in campo, il che per carità è sicuramente una cosa opportuna, se si mettessero anche le pattine prima di entrare sarebbe ancora meglio, però diciamo che c'è una priorità, ecco, io penso che non far entrare negli stadi le persone con in tasca dei proiettili, delle armi e delle bombe, forse è nella mia lista di priorità, la metterei un filo sopra, ecco, poi però per carità. Certo, oggi siamo più sereni comunque perché sapete che in campo non si bestemmia più, arrivano petardi e bombe carta su donne e bambini come nella curva qua di Torino purtroppo domenica, curva che indegnamente continua a chiamarsi Scirea e non capisco quando si decideranno a sbattezzare, no? Una curva che porta il nome di un grande campione, di un grande galantuomo ed è abitata da gente così fetida, e però appunto questo continua a esserci, ma l'importante è che in campo non si bestemmi più e questo abbiamo fatto un enorme passo avanti, mi pare, no? Il paese, Vabbè, senti Massimo, da romanziere al debutto e ricordo che questo libro si chiama L'ultima riga delle favole ed è edito da Longanesi. Quanto ti è servito per un romanzo, diciamo pure intimista o comunque di quel filone, quanto ti è servito questo lungo allenamento con la posta del cuore? Ma guarda, visto che siamo in un programma di sport, ci tengo a dire che mi è servito quasi di più il mio tiracino di giornalista sportivo. Io ho fatto giornalista sportivo per tanti anni, ho collezionato anche i mondiali del 90 con Gianluca Vialli che mi ha fatto un gavettone tentando di beccarmi dopo un mio pezzo in cui l'avevo preso in giro, quindi ho una lunga lista di problemi con i CT, anche all'epoca Vicini non mi amava moltissimo. No, però a parte questo, perché in questo è una favola, per cui chi lo comincia a leggere e mi conosce mi chiama dopo 5 pagine dicendo: ma sei tu l'autore? È uno pseudonimo, perché a pagina 5 il protagonista finisce alle Terme dell'Anima, che è un luogo, è una favola, quindi è un luogo magico, sarebbe la nostra interiorità ovviamente, ed è quindi circondato da draghi, serpenti, ogni genere di cosa, perché per dire le cose molto profonde, molto vere, bisogna usare spesso questi linguaggi simbolici, perché è un modo per arrivare meglio al subconscio delle persone. Ma è molto importante la parte sportiva, perché io proprio ho lavorato, o almeno il mio tentativo è stato proprio quello di dire alla gente quello che si dice ai campioni di sport, cioè tira fuori le potenzialità che sono in te. C'è un capitolo che si intitola La palestra, perché le terme dell'anima sono strutturate come le terme, quindi c'è il bagno turco, le varie vasche, c'è anche una palestra e c'è un'allenatrice in questa palestra che all'inizio costringe il nostro personaggio, il nostro protagonista Tomas, a stare dentro una scatola e lui dice, e gli dice: guarda che quella scatola l'hai costruita tu con i tuoi pensieri negativi, con i tuoi non ce la posso fare, non ci credere, non... Se tu riesci a rompere quella scatola che tu hai costruito, capirai che ogni essere umano, anche tu, ha delle potenzialità straordinarie. E io credo molto a questa cosa, io l'ho imparata il calcio, se mi permetti un minuto, io nel libro racconto sotto forma anche lì un po' sceneggiata da romanzo, ma un episodio vero a cui ho assistito, che vi voglio raccontare perché forse è la cosa più bella che ho visto nella mia vita di giornalista sportivo. Ero a Soccavo, dove si allenava il Napoli, ed eccezionalmente quel giorno Maradona si allenava ed era un evento, diciamo, e gli altri giocatori erano già negli spogliatoi, lui rimase da solo ad allenarsi e mise il 5 palloni nel punto della linea di fondo campo, nel punto in cui interseca l'area piccola del portiere. Da quel punto tu non riesci a fare gol, è impossibile, è contro ogni legge della fisica, perché hai il palo davanti a te, la palla deve fare una curva di 90 gradi. Lui calciò 5 volte e fece 5 gol. C'era un ragazzino della primavera del Napoli che andò a raccattare i 5 palloni e zitto zitto li mise dove l'aveva messo Maradona e cominciò a tirare. Ovviamente prese 5 volte il palo. Maradona, che era grandissimo per questa ragione che vi sto per dire, smise di parlare con i giornalisti, andò da questo ragazzino e gli disse: non ti preoccupare, anch'io la tua età non ce la facevo, guarda, si fa così. Si piegò, non c'erano ancora i videofonini, se no pensa che foto meravigliosa avrei fatto, gli prese la scarpa e gli fece vedere in che punto doveva toccare la palla. Tornò a parlare con noi e a un certo punto sentimmo gol, ci girammo e il ragazzino esultava perché era riuscito a fare gol. Quel ragazzino si chiamava Gianfranco Zola ed è diventato anche lui un grande campione. E io quel giorno ho capito che il talento da solo non serve a niente se non ci metti anche il carattere. Zola divenne un campione perché aveva talento, ma perché rimase lì con umiltà a imparare dalle lezioni di un grande maestro, perché Maradona era un uomo con mille difetti, ma era un campione con una personalità di cui oggi sentiamo molto la mancanza. Io, per ragioni di tempo, sono costretto a chiudere su questa favola. Andremo avanti ore evidentemente a sentire Massimo Gramellini a fabulare, il tempo invece è scaduto, quindi non ho nemmeno il tempo di rileggere la formazione di Radio 24 iniziale, ho il tempo di ringraziare Massimo Gramellini. Grazie a te e a tutti voi davvero di questa straordinaria partecipazione, di ricordarvi, se scatta l'applauso in sala io sono in grado di coprirlo con col mio vocione. Vi ricordo, autore dell'ultima riga delle favole, la staffetta di dirette di Radio 24, adesso vi lascio al giornale radio, ma prevede Sebastiano Barisoni tra un paio d'ore qui con le ultime di economie. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è per lunedì alle 14, dove qui io spero di ritrovarvi ancora più numerosi per commentare il campionato che sarà finito il giorno prima. Buon pomeriggio a tutti.